fabbrica rivale a me, oddio. Ma il sacerdoti ad me s'attende, dei traditor la pena, traditor egli non è. Di guerra l'alto segreto, e il fuggir voleo, a lei fuggire, traditori tutti, amorti, amorti! Oh, che mai farlo? La fonte inaridita, anima inesperata.